Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Per i denti di chi ama i fantasy. Si titola Il drago verde ed è il primo volume di una nuova trilogia scritta dall'inglese Scarlett Thomas, pubblicata in Italia da Newton Compton con la traduzione di Beatrice Messineo. Il secondo volume uscirà in Gran Bretagna nell'aprile 2018, il terzo nell'aprile 2019. A distanza di pochi mesi saranno anche nelle librerie italiane, perché insomma la Newton Compton ha già acquisito i diritti di tutta la saga. È una saga, quella di Scarlett Thomas, che è stata paragonata a Harry Potter, se non altro perché i personaggi sono alcuni ragazzini che hanno a che fare con la magia. Il mondo è stato sconvolto da un terremoto. No, non è un errore di pronuncia, non si parla di terremoto, ma di terremoto. Non funziona più internet, ci sono dei problemi con le nuove tecnologie e così via. Effie, 11 anni, dopo la morte della mamma nel terremoto, ha passato molto tempo insieme al nonno Griffin, che avrebbe voluto insegnarle la magia, ma diciamo che non ha fatto in tempo. Infatti il nonno muore in circostanze poco chiare, diciamo all'inizio del romanzo, ma Effie eredita alcuni oggetti magici, oltre all'enorme libreria del nonno. Il papà di Effie però non vuole che lei abbia a che fare con la magia e così dà in beneficenza i 500 libri di nonno Griffin. Anzi, per la precisione 499, perché uno sfugge. In compagnia di alcuni amici, Effie cercherà di recuperare i libri del nonno e qui i ragazzini scopriranno di avere alcuni poteri magici. Anche se questi poteri magici, diciamo che non sono a costo zero, nel senso che se vengono usati consumano energia. Allora, com'è nato questo immaginario magico? Sentiamo Scarlett Thomas con la traduzione di Bruna Cammarano. That's a very big question. La domanda è una bella domanda, una grande domanda. Sebbene in un certo senso tutto ciò sia stato ispirato da un elemento reale, perché il Dragon's Queen è un luogo che esiste realmente nel sud dell'Inghilterra, quindi è tutto partito da là. Poi però, come sono venuti fuori questi diversi mondi, è stata la conseguenza della mia ricerca all'interno della mia testa, della mia mente. Ho pensato a come io in un certo senso intendo e capisco la vita e ho riflettuto sul concetto di un altro regno, di un altro mondo che noi non possiamo vedere e sperimentare direttamente, che magari è più magico, è più filosofico, se vogliamo un po' più spirituale, e quindi ho scelto di raccontarlo. And I wondered what it would be like to be able to go there. Effie è la protagonista di questo romanzo, di questa saga. È una ragazzina, 11 anni, che fa molto tenerezza perché, insomma, ha una situazione familiare un po' triste. Lei ha perso la mamma, il padre non si occupa tantissimo di lei, o meglio, non la comprende fino in fondo. E ha questo bellissimo rapporto col nonno Griffin. Però lo possiamo dire perché, insomma, è quello che dà il là al romanzo. Il nonno muore in circostanze misteriose e lei sostanzialmente dovrà capire quali erano gli insegnamenti magici che il nonno voleva darle. Ecco, in questa ricerca lei sarà accompagnata da alcuni amici. Che tipo di rapporto ha con Maximilian e con gli altri che la circondano? The relationships with her friends really develop over the series. Il rapporto con i suoi amici, il rapporto fra Effie e i suoi amici si sviluppa mano a mano nel corso della serie. Io volevo proprio esplorare questo concetto, il concetto dell'amicizia, e volevo dare a questi personaggi bambini profondità e volevo dare una personalità. Il rapporto con Maximilian in particolare è un rapporto che si sviluppa e che si basa, ovviamente non sveleremo come, ma si basa sul fatto che lui la aiuta in un certo senso ed è leggermente tragico, se vogliamo, in un certo senso è leggermente segnato. Maximilian è un personaggio dark, ma al contempo è un personaggio buono, e volevo proprio esplorare questo concetto dell'oscurità e della bontà insieme, e quindi come il tutto poi si sviluppa nel corso del romanzo. And how these things develop, so I find it very fascinating. In questo romanzo hanno una grandissima importanza i libri. Non possiamo svelare tantissimo, però diciamo che i libri hanno un potere. I libri hanno il potere di cambiare la vita delle persone, anche se non sono magici, nel senso, diciamo, tradizionale del termine. C'è un momento in cui Effie cadrà proprio all'interno di un libro, vivrà una storia. Perché ha voluto mettere l'accento in maniera così forte su questo potere che hanno i libri? I do think books are extremely powerful. Io credo che i libri siano estremamente potenti. Io credo che i libri abbiano un effetto molto profondo sulle persone, perché quello che dico nel Drago Verde è che i libri ti possono far credere qualcosa da un punto di vista spirituale, da un punto di vista politico. Sono questi segni neri su una pagina che però poi assumono forma, entrano nel tuo cervello e ti possono portare a spingere ad agire e quindi a cambiare. Questa per me è una vera e propria magia. Io ho sempre adorato leggere, sin da quando ero ragazzina, e sempre ritenuto che la lettura fosse estremamente importante. Ero iscritta, avevo la tessera della biblioteca della mia città e andavo in questa biblioteca che era molto grande e avevo la sensazione di un qualcosa illimitato, senza limiti, senza confini, dove io potessi andare a scoprire ed esplorare qualsiasi cosa volessi. And so that was what started my fascination with books. Effie e i suoi amici avranno a che fare anche con alcuni oggetti magici che sono stati lasciati dal nonno Griffin. C'è un anello, per esempio, ci sono degli occhiali particolari, le lenti della conoscenza, c'è anche una spada. Questi oggetti diventano magici solo in base, diciamo, a delle caratteristiche che ognuno dei personaggi ha dentro di sé. Non funzionano con tutti, insomma, per intenderci. Se lei potesse scegliere, quale di questi oggetti magici sceglierebbe per lei? What an amazing question. I think I would have a magical pen. Domanda sorprendente. Beh, quello che mi piacerebbe avere una penna magica che mi potrebbe consentire di scrivere dei libri bellissimi, dei libri sorprendenti. E un po' appunto la penna magica del bardo, che è uno appunto dei personaggi che ti dà la capacità magica di scrivere. Yes, that's what I'd choose, a pen. In genere nei fantasy dove c'è la magia c'è anche appunto il mistero, però inteso come mistero oscuro, ci sono delle tinte nere. Invece il suo è un fantasy brillante, solare, anche ironico. Si nota che ha voluto fare anche delle piccole critiche, forse anche sarcastiche, ad alcuni aspetti della società. Per esempio, quando ha immaginato questo drago che mangia le principesse, però devono essere vestiti assolutamente alla moda, quindi devono essere veramente trendy queste principesse. Oppure quando Effie ha a che fare con dei dolci che può scegliere, e c'è quello per vegano, quello per vegetariano, quello senza uova, quello, cioè tutte le particolarità che ci sono oggi nel mondo di oggi, insomma. Così come ha immaginato un mondo senza internet, per esempio, che è tornato indietro. C'è anche appunto un suo messaggio politico-sociale sotto? Yes, I think I've always been careful not to have an exact message. Sì, ovviamente io penso che sia sempre molto importante stare attenti a non dare un messaggio esatto, preciso, perché se un libro potesse ridursi ad un mero e semplice messaggio non sarebbe necessario un libro, non sarebbe necessario scriverlo. Invece io ho sempre amato esplorare le cose che mi affascinano e cerco sempre di essere molto onesta in relazione alle cose che mi interessano. Il conflitto, il dramma, la situazione politica e queste varie idee, anche queste cose che magari non possono essere esplorate o raccontate in un'altra maniera, per esempio anche questa idea delle principesse che frequentano questa scuola, una specie di fattoria, una scuola dove si insegna loro a spazzolarsi i capelli, a pettinarsi i capelli, a farsi il trucco, a come parlare di poesia, di filosofia in una maniera che possa piacere e compiacere il drago che la mattina dopo se le mangerà. Ovviamente però sono affascinata dall'idea di come anche le donne, ci si aspetta che le donne si presentino e si mostrano, però ovviamente questo non significa semplicemente dire non spazzolarti i capelli, non ti mettere il trucco e andrà tutto benissimo. È un po' più complesso. I think stories give us such an amazing way to be able to think about complex political questions. Io credo che le storie siano qualcosa, un modo sorprendente o mezzo sorprendente per cercare di pensare e di riflettere a quelle che sono le questioni magari politiche complesse, quindi una ragazza, un ragazzo possono attraverso appunto la lettura, attraverso questo cercare anche di capire come magari la società si aspetti che loro si presentino in una maniera magari più bella, che possa consentir loro di essere consumate appunto dalla società. Credo che quindi sia importante capire, anche magari cercare di fare dei confronti, dei paragoni rispetto a quella che è la loro situazione, la loro scuola, la loro famiglia. Men or society or whatever. I think it's very important to be able to ask those kinds of questions in a story. Anche in Gran Bretagna ho letto degli articoli, se non erro era il Guardian, chiaramente il suo fantasy è stato subito paragonato a Harry Potter perché i protagonisti sono dei ragazzi, hanno a che fare con la magia, anche se ci sono tantissime differenze, appunto Harry Potter è un po' più dark, questa saga invece è più solare in alcuni aspetti. Ecco, però quando la paragonano la sua saga a Harry Potter, onestamente le fa piacere o è anche un po', come dire, scocciata da questo paragono? I think it's inevitable that writing a series with a group of friends that do magic. Io credo che sia inevitabile che nel momento in cui si scrive una serie con un gruppo di amici che pratica in un certo senso la magia, che si venga paragonati a Harry Potter. Peraltro ne sono molto compiaciuta, ne sono molto felice, anche perché questa serie è una serie molto grande, molto ampia, di grande successo, che la gente ama in maniera genuina, in maniera spontanea, e quindi sono molto felice di questo. Peraltro appunto ci sono persone che vanno a Kingsross Station a farsi una foto, perché è un luogo reale che esiste, lo fanno in conseguenza di Harry Potter e della lettura. Ciò detto, però, io ho cercato di fare, cerco di fare qualcosa diverso rispetto ai libri di Harry Potter. Intanto ho cercato di rendere la magia qualcosa di un attimo più reale, realistico, e poi ho cercato anche di affrontare alcuni problemi. Innanzitutto la magia costa, non è che per qualsiasi cosa prendi la bacchetta magica e fai un qualcosa di magico, di magia, mentre in Harry Potter è vero che devono imparare, ma una volta imparato la magia è senza limiti. Invece nel mio libro e nella mia serie esploro il concetto della magia come qualcosa che presenta delle restrizioni, che presenta dei limiti. E poi io, a differenza di Harry Potter, sono convinta che tutti possano fare qualcosa di magico, possano utilizzare e ricorrere alla magia. Non esiste, secondo me, quello che non è in grado assolutamente, che nasce non magico, che non può fare nulla di magico, che non può imparare. Secondo me questo è possibile. Quindi, secondo me, ci sono tutta una serie di differenze e sono molto felice che tu abbia trovato questo libro più leggero, anche perché il prossimo è un po' più dark. This light, this one, the next one is a little bit darker. E questa era Scarlett Thomas, autrice di Il Drago Verde, primo volume di una trilogia fantasy pubblicata da Newton Compton Editori. Una breve pausa, poi parleremo ancora di libri. Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Mecal.com, l'eccellenza che funziona nelle macchine per la lavorazione dell'alluminio. Vi presenta Il Cacciatore di Libri. Clara Sanchez è una scrittrice spagnola molto amata in Italia. Sono suoi romanzi come Il profumo delle foglie di limone, sicuramente il più famoso, e il suo seguito Lo stupore di una notte di luce. Ma poi ci sono anche romanzi come La meraviglia degli anni imperfetti, Le mille luci del mattino, Le cose che sai di me, Entra nella mia vita. Sono tutti pubblicati da Garzanti. Ora la Garzanti ha pubblicato il primo romanzo della Sanchez con il titolo La forza imprevedibile delle parole, un romanzo datato 1900. 1989, non era stato ancora pubblicato da noi in Italia. In attesa tutto ciò della pubblicazione del nuovo romanzo che avverrà a marzo 2018. Sicuramente questo primo romanzo è più acerbo rispetto agli altri, ma possiamo dire che ci sono già alcune delle caratteristiche dei romanzi di Clara Sanchez. C'è uno stile scorrevole, c'è sempre un mistero e le persone, i personaggi non sono mai come sembrano, diciamo che tutti nascondono un po' un segreto. La protagonista è Natalia, una donna sui 40 anni, sposata, con figli, però insomma ha una vita poco entusiasmante finché non incontra un uomo, Raul, che l'affascina completamente, ma ovviamente Raul non è esattamente quello che sembra. Abbiamo preso spunto da questo primo romanzo di Clara Sanchez per parlare con l'autrice un po' di tutta la sua carriera. Innanzitutto, come vive quel primo romanzo? Che cosa ne pensa a distanza di anni? Sentiamo Clara Sanchez con la traduzione di Rossana Ottolini. Per me è un piacere essere qui altra volta, grazie Alessandra. Para mí este primo romance está lleno de vitalidad, de la vitalidad de quel momento. Sí, efectivamente, es el primo romanzo que es stato pubblicato, il mio primo romanzo pubblicato, e riguardandolo a posteriori lo trovo pieno di vitalità. In qualche modo vedo me stessa attraverso Natalia, ma vedo anche un momento, una situazione sociale tipica di quegli anni, della Spagna di quegli anni. Gli anni 80 sono stati anni straordinariamente convulsi per la società spagnola, anni di un'apertura straordinaria. Uscivamo da relativamente poco tempo dalla dittatura franchista, era quasi appena finita, ancora in corso la transizione democratica, e all'improvviso la gente si ritrova nelle mani una libertà totale, una libertà che prima non aveva mai avuto, e anche nei costumi ci siamo trovati andare in giro vestiti da capo a piedi quasi con uno scafandro ad uscire praticamente nudi. Sono gli anni in cui nasce la movida madrilena, di cui penso tutti abbiamo sentito parlare, tutti conosciamo. Questa sensazione di libertà crea in altre persone, come è il caso di Natalia, una sorta di nostalgia, dei desideri. Natalia è una donna sposata, è una donna con dei figli, ma vede che intorno a sé ci sono persone che, per così dire, si divertono, hanno una vita più intensa, più interessante, vanno ai concerti. E Natalia è una donna che vive un po' in una sorta di chiostro nella sua vita fra le quattro mura domestiche, e comincia a sentire sempre più prepotentemente il richiamo di queste aspirazioni che si traducono in desideri, desideri erotici, desideri di sensualità, che lei concentra, focalizza su una chimera, su un amore, e questo amore viene incarnato da un oggetto del desiderio che è Raul. Diciamo che, riguardando di nuovo il mio romanzo, vedo tanta vitalità, ma non solo vitalità, vedo anche tanta ironia, un'ironia che poi si è andata un po' perdendo negli anni. Io credo che oggi siamo tendenzialmente più scettici, abbiamo uno sguardo molto più sarcastico sulla realtà. Sicuramente è il più ironico di tutti i miei romanzi, io arrivo persino a definirlo una sorta di parodia. Potremmo quasi dire che Natalia rappresenta una parodia di personaggi come Anna Karenina o una Madame Bovary dei giorni nostri, o comunque contemporanea, una donna chiusa all'interno di una vita che le va un po' stretta, che ha bisogno di uscire. Possiamo anche dire che si tratta di un romanzo che ci parla dell'infedeltà come veicolo per rompere la noia, la routine. E forse c'è da dire una cosa, che noi in quegli anni in Spagna siamo diventati, da poveri che eravamo, un po' più ricchi, e a un certo punto tutti volevano diventare quella categoria che era definita la beautiful people, e in questo tentativo si è persa l'ironia, perché tutti diciamo erano ossessionati dall'idea di mantenere un certo tipo di immagine, ossessionati dal glamour, e l'ironia è andata persa, e devo dire che anch'io sono stata vittima di questa perdita. Rompió lo que era la ironía en España, que además ha marcado lo que es nuestra literatura siempre, y yo he sido víctima de esto. Questo romanzo dunque è un po' lo specchio dei tempi, descrive le donne, anche le relazioni d'amore, le frustrazioni di alcune donne, di alcuni personaggi, insomma, esemplificativi, sì, degli anni Ottanta. Spesso i tuoi romanzi scattano una fotografia o su un momento storico o su un aspetto della società, Per esempio, facendo così una rapida carrellata, in Entra nella mia vita avevi riproposto un fatto storico, lo scandalo delle adozioni illegali, di questo traffico gestito dai religiosi. Poi naturalmente nel Profumo delle foglie di limone e nel seguito c'era la caccia ai nazisti, ma c'era anche Le mille luci del mattino, in cui ponevi l'accento sul mondo del lavoro, su come stava cambiando anche il mondo del lavoro e le relazioni nel mondo del lavoro. Cos'è che ti colpisce? Cos'è che ti fa venire l'idea di scrivere una storia? Sì, la realtà mi ispira moltissimo, perché es que es muy rica, y sobre todo la sensación de que no la podemos apresar, de que es que direi se que nos escapa, la realtà no fosse un motore più importante di ispirazione per me, perché la considero un elemento di straordinaria ricchezza e al contempo un elemento che non riusciamo a catturare, o che almeno io non riesco a catturare, che non riesco a capire. Quindi cerco sì invece di captare, riesco in qualche modo a captare la realtà attraverso il mondo dei sentimenti, attraverso il mondo delle emozioni, delle sensazioni. In entrare nella mia vita, che è uno dei romanzi che amo di più, parlo di questo scandalo al quale hai accennato, che io ho in qualche modo captato, percepito, ma espresso attraverso le emozioni e i sentimenti vissuti da due famiglie. Una famiglia che è alla ricerca del figlio che sanno che è stato strappato loro, e un'altra famiglia che di contro vive nel terrore che il figlio che in qualche modo hanno acquisito possa venire tolto a loro. E ci sono altresì le emozioni, le vicende, i sentimenti soprattutto di due sorelle, Veronica e Laura. Veronica che è alla ricerca di sua sorella, che sa che da qualche parte esiste, e Laura che non ha la minima idea di quello che sta per succederle, del fatto che la sua vita sta per essere travolta da una valanga. E io mi sono un po' immaginata cosa sarebbe successo a me in una situazione del genere, se un giorno qualcuno fosse venuto a bussare alla mia porta per dirmi: guarda Clara, che la vita che tu hai avuto, la famiglia che hai conosciuto, è tutto un miraggio, è una vita falsa, una famiglia falsa. Per me non sarebbe stato così, perché i miei genitori avrebbero continuato ad essere i miei genitori. Quindi mi sono chiesta in che modo si riesce ad assimilare, a metabolizzare una notizia del genere, e ho voluto anche in qualche modo, attraverso questa vicenda, parlare dei rapporti quasi vampireschi che si creano tra le persone. Comunque, per tornare al discorso dell'ispirazione, diciamo che la vita in qualche modo mi dà un là, mi dà un tema su cui lavorare, e io ci scrivo. E un altro aspetto, per meglio dire, che mi interessa tantissimo è quasi a volte la soprannaturalità, la magia della vita e della realtà, che mi piace in qualche modo interpellare. Che hai de sobrenatural en la vita, no? En la realtà sempre hay algo che es como mágico, che se nos escapa. Possiamo dire quindi che Clara Sanchez osserva il mondo attraverso una lente d'ingrandimento che è fatta soprattutto di emozioni, di sentimenti. Cioè, attraverso le emozioni tu racconti le storie. Sì, totalmente. Es que yo me doy cuenta que por un escritor básicamente lo que pone, lo que escribe es su carácter. Sì, è assolutamente così, hai perfettamente ragione. Mi rendo conto che buona parte di ciò che un autore esprime attraverso ciò che scrive è il suo carattere. Nel mio caso credo di avere un carattere, per così dire, esagerato, molto, molto intenso, e che viene dalla mia infanzia, da quella che è stata la mia infanzia, da quelle che sono state le mie vicissitudini, le mie esperienze. Ho sicuramente pianto tantissimo, ma ho anche vissuto con straordinaria intensità e credo di esprimere tutto con grande intensità a mia volta. Quindi nei miei romanzi il punto di partenza è sempre la realtà, è sempre un fatto concreto, reale, ma mi piace anche pensare che ci sia una componente magica, soprannaturale, che in qualche modo ci faccia un po' da scudo nella vita, questa componente magica. Bueno, lo que me gustaría es, o sea, no quiero confundir a los lectores y que piensen que yo tengo una vida intensa. Ma vorrei fare una precisazione, non vorrei che i lettori in questo modo pensassero che è una vita così da 007. Io credo di avere una vita abbastanza noiosa, abbastanza rutinaria, scrivo, lavoro, ogni tanto esco a fare una passeggiata, vado al cinema, ma sì, vivo tanto intensamente. E già sta. Già in questo primo romanzo si vedono degli elementi caratteristici di quelli che poi saranno i romanzi successivi di Clara Sanchez. C'è sempre un mistero e spesso le persone, i personaggi, non sono poi quello che sembrano. C'è sempre una doppia faccia. Perché sei sempre stata attratta fin dall'inizio appunto della tua carriera da scrittrice da questa doppiezza delle persone. Sì, è incredibile perché eso ha continuato hasta mi ultimo. Sì, ed è incredibile, effettivamente questo aspetto, questo fattore mi ha sempre accompagnato ed ha accompagnato tutti i miei romanzi, li ritroviamo sempre anche nell'ultimo. Diciamo che questa impressione, questo convincimento intimo del fatto che le apparenze ingannano e ingannino sempre è con me da sempre. Io credo che sia estremamente difficile entrare appieno nella mente di un'altra persona, e questo lo vediamo anche in coppie che condividono la vita magari da 40 anni, che all'improvviso diciamo hanno una sorpresa più o meno gradevole che certamente non si aspettavano. Io credo che noi non arriviamo mai a conoscere gli altri completamente, questo di contro credo che renda la vita anche più interessante, però ogni tanto diciamo che la riempie anche di sussulti. L'intrigo è un elemento, un ingrediente che io metto sempre nei miei romanzi. Io credo di dovere molto alla tradizione letteraria del noir, e quando ho scritto La forza imprevedibile delle parole leggevo molti romanzi noir, molti gialli, anche se non ho mai voluto scrivere un poliziesco vero e proprio, però la parte dell'intrigo del poliziesco l'ho sempre inserita nei miei romanzi, mi piace molto. Se podría resumir diciendo que todos somos sospechosos. Potremmo riassumere questo concetto dicendo che siamo tutti dei sospetti. Clara, visto che tu attraverso storie di personaggi inventati così ci aiuti anche a comprendere la realtà o dei fatti storici, dei momenti, per noi italiani è stato complicato interpretare e capire le spinte indipendentiste della Catalogna. Anche spagnoli. Ecco, tu come la spiegheresti agli italiani questa cosa? Perché proprio ora? Ci scriveresti mai un romanzo? Ti darebbe ispirazione? Insomma, ci aiuti un po' a capire, se si può capire. El hecho de la independencia de Cataluña cambia minuto a minuto. Diciamo che la vicenda della indipendenza o delle spinte indipendentiste catalane è una vicenda che cambia in ogni istante. Ogni momento abbiamo una notizia diversa, quindi in Spagna abbiamo cominciato, quantomeno questa è la mia visione, a vederlo come una sorta di telenovela. E devo dire che all'inizio non ci ho dormito. Adesso lo vedo più come uno spettacolo tipo Cirque du Soleil, mi ricorda abbastanza questo. Però non so se sarai d'accordo con me, Alessandra, ma c'è un'altra sfaccettatura tipica dei miei romanzi, che è il discorso della manipolazione. La manipolazione ordita da alcune persone nei confronti di altre. La manipolazione è un'arma dallo straordinario potere e la vediamo agire in ambiti diversissimi. Quello può essere l'ambito di una famiglia, di una coppia, di un gruppo e, come no, l'ambito politico. Io credo che recentemente siamo stati tutti testimoni, non mi riferisco solo a questa vicenda, di una grandissima manipolazione della società, dell'opinione pubblica, però io credo che dobbiamo, nel caso della Catalogna in questo caso, attenerci ai fatti, alle evidenze concrete. Uno dei fatti è che 2000 aziende sono già uscite dalla Catalogna e ci troviamo a dover fare i conti con una crisi economica per niente ridicola a causa di questa cosa, ma soprattutto siamo di fronte a una spaccatura sociale gravissima, perché l'economia prima o poi si riprende e si riaggiusta, ma l'odio che si è creato tra le persone che sono state messe, per così dire, le une contro le altre è veramente grave. Quello ci vorrà tantissimo tempo per ricucirlo, per rimediare all'odio che si è creato. Io credo che francamente sia imperdonabile, chiunque sia il responsabile, aver creato un clima d'odio così profondo che ha spaccato la società, che ha diviso alcune famiglie. Io credo che le idee, quali che siano, non possono valere tanto, mai. Sì, e hai altra cosa che mi dà molta rabbia di Spagna, no? E vorrei aggiungere una cosa che mi fa molta rabbia del mio paese, del modo di essere del mio paese. Credo che in questo l'aveva magistralmente riassunto Antonio Machado in uno dei suoi versi, in cui diceva: la Spagna mi fa male, la Spagna mi duole. Ed è che stavo pensando che più o meno in questo periodo, in questi anni, stavamo un po' rialzando la testa, uscendo finalmente dalla crisi economica, e di nuovo ci ritroviamo immersi in questo scontro che in qualche modo ci obbliga anche a dover fare delle scelte e a prendere una posizione. Ed è tutto frutto di un'invenzione politica. Colpa de los inventos de los políticos. E questa era Clara Sanchez, ora in libreria con il primo romanzo, quello che aveva scritto nell'89, pubblicato solo ora in Italia da Garzanti, La forza imprevedibile delle parole.